cosa stiamo a fare, amici, scusa, se tu ti arrabbi, tu quando io ti dico, pace, tu mi dici paracuro, poi non ci vai, se no, gatto. Ma c'è bisogno di riscaldarsi, no? Allora se ti incavoli tu, mi incavolo pure io, ed è peggio, no? Poi certo quando ti dico così, o chiudi, oppure o fai il corso, allora ti devi arrabbiare, perché senti che ti voglio, caro. Tranquillo che io non mangio nessuno, gatta. Le altre lo sai perché dicono così, allontanano così, perché vorrebbero loro quello che voglio dare agli altri. Sapete già ne mangiano la mano. Cappadoccia. Oggi che non mi hai cercato tu, oggi che, non mi hai cercato tu, hanno trovato gli altri, io faccio, cosa facevi con Danilo Snoopy? E a mettevi in culo, qui i soldi sprecano per dire cazzate, non è che io non mi arrabbio più, io piglio e chiudo quando non... Ma non mi avevi riconosciuto, che io ho scherzato, contento, ti sei arrabbiato. Se ti arrabbi io ti faccio peggio, invece tu non ti devi arrabbiare. Anche che ti faccio squillare il paese, però a me me lo fanno squillare, eppure cos'è, mi arrabbio. Io, va bene, dico adesso mi rompo le scatole, perché qua... Credo che sia per la stessa persona e invece eri tu, caro. Io ti amo.